senti sospetti e non sono contento dentro questa vita. E se sto fermo un momento non mi giudicherò, non mi giudicherò. Mi sento solo e non ho bisogno di convincermi che sia così. Io ho bisogno di te che sembra tutto vuoto e inverosimile. So solo che sei un'illusione che aspetta dentro me per dare fuoco a quel vuoto, perché cambiare non è impossibile. E a ringare in difesa, tu non mi puoi toccare, è solo che non mi fido più di me stesso. Come potrei riconoscermi, solitudine anarchica, musicalmente mi vomita. Solo e non ho bisogno di convincermi che sia così. Io ho bisogno di te che sembra tutto vuoto e inverosimile. So solo che sei un'illusione che aspetta dentro me per dare fuoco a quel vuoto, perché cambiare non è impossibile. Sembra tutto vuoto.